1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eh sì, cari ascoltatori, sono le 7:17 minuti e noi siamo in diretta! In diretta! Qui al 1° maggio ci sono i giornali, d'altronde non ci saranno domani. Peraltro domani è sabato, quindi io me la dormirò alla grande. Ma noi siamo qui in diretta come di consueto fino alle 9. Di cosa parleremo dopo? Un po' parleremo degli scontri avvenuti ieri. Avremo ospite quel notaio simbolo, al notaio alpino che avete visto nelle immagini preso a colpi di uova dai manifestanti No Expo mentre esponeva la bandiera italiana. E parleremo anche un po' di Berlusconi, il calcio e il Milan. Ma sì, ma non è solo parlare di calcio come ci ha criticato qualcuno, è parlare della fine di un'era, di un'epoca, di Berlusconi che vende ai cinesi, ai thailandesi, agli indonesiani, ai filippini, o a chissà, agli arabi. Si chiude un'epoca, chi lo sa. Avremo il nostro Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore che sta seguendo tutta la vicenda. Avremo l'avvocato Paniz, da sempre vicinissimo a Berlusconi, ancorché diviso dalla fede calcistica, visto che lui è juventino. Avremo il grande Tiziano Crudeli, una voce, un volto, un simbolo per tutti i milanisti e non. E insomma, di tante cose parleremo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. Come detto, venerdì 1° maggio e i titoli si dividono tra Expo, ovviamente, ma anche la questione delle pensioni. Ecco, il Sole 24 Ore mette proprio questi due titoli. Parte l'Expo, banco di prova per Milano e sistema paese, ma anche pensioni da rivalutare, buco da oltre 5 miliardi. La Consulta ha bocciato parte della famosa legge Fornero. Repubblica, la Consulta boccia il taglio alle pensioni, buco da 5 miliardi. Questo è il titolo di prima pagina. Il Corriere della Sera ha un'intervista al capo dello Stato Mattarella. Expo sia un punto di svolta, così dice il capo dello Stato. Per la Stampa, il giorno dell'Expo tra festa e tensioni. Ci sono infatti oggi i cortei. Libero, festa del lavoro senza il lavoro, per i dati sulla disoccupazione non incoraggianti. Il Fatto Quotidiano, tesoretto, buco da 5 miliardi. Ripresa, sempre meno occupati. Il Giornale, Renzi in Armani, Italia in mutande. Si parla del nuovo tasso di disoccupazione. Bocciato il blocco delle pensioni e anche il titolo del Messaggero. Insomma, come vedete, l'apertura dell'Expo, ma questa notizia della Corte Costituzionale che ha cancellato una parte della legge Fornero, creando i presupposti per un buco sui conti italiani da 5 miliardi, forse 10 miliardi, questo scrive il Sole 24 Ore, beh, la notizia del giorno e da cui voglio partire. Pensioni da rivalutare, buco da 5-10 miliardi. Questo è il titolo del Sole, pagina 7. Maria Carla De Cesari e Fabio Venanzi spiegano molto bene che cosa è successo. La Corte Costituzionale ha cancellato la mancata rivalutazione in base all'inflazione delle pensioni di poco superiori a 1.400 euro, una penalizzazione che era stata applicata dal governo Monti nel 2012-2013, la famosa legge Fornero, quella dei sacrifici detti con lacrime durante la famosa e celebre conferenza stampa dall'allora ministro Fornero. L'effetto sui conti pubblici è pesantissimo. In pratica, se si dovesse dare seguito a questa bocciatura, bisognerà riconsegnare circa 500 euro a 6 milioni di pensionati, il che vorrebbe dire un costo e un ammanco nei conti pubblici che è stato calcolato all'inizio di 5 miliardi, ma si tratta di una cifra al ribasso, scrive il Sole, perché in base ai dati INPS sulle pensioni, la mancata rivalutazione delle pensioni superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS ha fatto risparmiare almeno 6 miliardi nei 2 anni, e a questo andrebbe aggiunto l'effetto trascinamento per i periodi successivi. Dunque il conto di quanto va restituito, considerando un quinquennio, potrebbe essere vicino ai 10 miliardi. Destinatari di queste restituzioni sarebbero circa 5,2 milioni di pensionati. Beh, questi pensionati magari non attendono altro e non vedono l'ora. I conti pubblici sono già al salasso. Gli italiani temono che questo ora cosa possa voler dire? Bisogna trovare altri 5-10 miliardi? Ci piazzano nuove tasse? Beh, intanto addio tesoretto, il tesoretto, vi ricordate il tesoretto? Se fosse così, il famoso tesoretto, se c'è, ciao. Per Libero il conto sale già a 13 miliardi, la Fornero ci lascia una voragine da 13 miliardi, saranno 5, saranno 10, saranno 13, i calcoli vanno fatti bene. Sta di fatto che la reazione del governo, secondo il Fatto Quotidiano, è stata una reazione molto dura. In ambiente di governo viene colta questa frase: la Consulta ora ci spieghi dove dobbiamo trovare questi 5 miliardi. La Consulta è una casta, colpa loro. Wanda Marra, pagina 2 del Fatto. Ora la Consulta dovrebbe dirci anche dove trovarli questi soldi. La vera casta sono loro. La verità è che questa è una botta grossa ed è chiaro come funziona la giustizia in questo paese. Se tu volevi togliere ai ricchi per dare ai poveri, non si può fare. Queste sono due considerazioni che vengono attribuite ad ambienti governativi, non meglio specificati, dal Fatto Quotidiano, e che riguardano appunto questa situazione di possibile buco da 5-10 miliardi. Ora dove si vanno a trovare questi soldi? Mentre il ministro, o meglio ex ministro Elsa Fornero, torna alla ribalta. Chiaramente il suo telefono ieri non ha fatto altro che suonare. Lacrime sprecate, così titola Carlo Di Foggia, nell'articolo di Carlo Di Foggia, sempre sul Fatto Quotidiano. L'ex ministro dice: quella norma non fu scelta mia, ma fu scelta del governo al completo. Vorrei si ristabilisse un minimo di verità. Sì, però l'ha pronunciata lei la famosa parola sacrifici in lacrime. Sì, sì, è toccato a me. Quando uno fa parte di un governo succede che ti dicano questa cosa va fatta. Io però ci credevo davvero. La verità è che sono stata un po' ingenua, ma devo dire che mi hanno anche lasciata da sola. Così Elsa Fornero. Io piansi perché sapevo che si potevano salvare anche altri assegni, diciamo quelli fino a 1.800 euro, massimo 2.500 euro. Oltre a quella soglia sono privilegi che si potevano intaccare. Quelle erano norme inserite in un decreto Salva Italia. Cos'altro serviva di più per giustificare i sacrifici? Si può credere o meno che l'Italia fosse in condizioni di dover essere salvata, ma questo è il dato di fatto. Ma lei ci credeva davvero? Le assicuro che in quel momento ne eravamo fortemente persuasi. Forse, ripeto, sono stata un po' ingenua, ma ci credevo. Sì, ma perché quei sacrifici non sono stati compensati da misure di equità? Lo riconosco, è vero, le resistenze sono state moltissime. E Elsa Fornero si difende anche su Repubblica, intervistata da Vera Schiavazzi, pagina 3. Quella misura non è mia e non riesco a capire la sentenza. Bloccare le pensioni alte, o comunque non quelle più basse, in un momento di grave crisi finanziaria, è una manovra contro la quale è difficile eccepire. Eppure, dice, nessun commento, non conosco nel dettaglio la sentenza, ma la prima osservazione è che non era una norma stabilita da me. La norma non faceva parte della riforma pensionistica, non fu una norma proposta da me e non entrò nella riforma, fu dovuta alla situazione economica tragica del paese, da tutti conosciuta. Il governo implose il blocco per 2 anni e l'indicizzazione delle pensioni più basse fu sbloccata grazie al mio intervento. Ora si fa la storia, si fa la difesa, si fa la controdifesa, colpa di chi, colpa di chi non è. Sta di fatto che questa è la situazione, possibile buco da 10 miliardi di euro nei conti pubblici. Intanto, per parlare sempre non di pensioni ma di lavoro, la disoccupazione purtroppo risale, torna al 13%, a marzo sono stati persi 59.000 posti di lavoro. Aumentano i veri rapporti a tempo indeterminato, i giovani senza lavoro, dunque disoccupazione giovanile, sale al 43,1%. Tutti i dati sono riportati da Claudio Tucci a pagina 8 del Sole 24 Ore. Il mercato del lavoro, insomma, non riparte. A marzo il numero di occupati scende di 59.000 unità sul mese, meno 70.000 invece sull'anno. Il tasso di disoccupazione al 13%, sfiora il picco del 13,2% registrato lo scorso novembre, e l'esercito dei senza lavoro si attesta a 3.302.000 persone. Viva la festa del lavoro del primo maggio. Per continuare su questi dati non positivi, anche il Corriere della Sera si concentra invece su un altro provvedimento che era stato voluto dall'Europa, incentivato dal governo Letta, poi portato avanti con Renzi, quello che si chiama Garanzia Giovani. 530.000 gli iscritti, ma solo 2 su 10 hanno un'offerta, e per ora dall'Unione Europea sono arrivati 11 milioni di euro. Il ministro Poletti ammette sono necessari dei correttivi. Tutti questi dati non incoraggianti li trovate nell'articolo di Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, pagina 13. Sarà un grande successo, aveva detto José Barroso, allora presidente della Commissione Europea. Questo programma Garanzia Giovani, cioè un piano per favorire l'occupazione tra i 18enni e i 29enni che non studiano e non lavoro, compie un anno e i numeri sembrano non dare ragione a Barroso. In Italia 530.000 ragazzi registrati sul portale con le offerte di lavoro. Ci si chiede se siano tanti o pochi, tanti se si considera il numero massimo di persone raggiungibile con i soldi a disposizione, cioè un miliardo e mezzo a disposizione per 560.000 persone. Pochi se si alza lo sguardo sul numero totale dei cosiddetti giovani che non studiano il lavoro, che sono in realtà 2 milioni in Italia. E cosa è successo a chi ha deciso di partecipare? A 80.000 ragazzi è stata fatta un'offerta di lavoro, 80.000 su 560.000. Il 17% degli iscritti, al netto di chi poi si è cancellato. Poi bisogna capire di questi anche quanti hanno accettato. Vabbè, dati non molto incoraggianti, come avete visto, sia sui conti pubblici sia sull'occupazione nella giornata del 1° maggio. Ma vi voglio lasciare con la prima della pubblicità senza l'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante? Eh no, cari ascoltatori. Eccolo qua l'articolo che ci fa stringere le mani sul volante se siete alla guida, se siete a colazione, se siete a letto, mani sul cuscino, ben strette. Finto poliziotto lavora in questura 3 mesi. Succede a Bologna, dove un impostore avrebbe partecipato a indagini, dato suggerimenti, visionato delicati dossier. Lo racconta Antonio Amorosi su Libero. 2 persone hanno partecipato a riunioni, operazioni, accedono ai PC, riconosciuti, considerati, avevano sotto di loro anche persone che rispondevano a loro ordini, verso i quali i colleghi di grado superiore erano sempre molto scortesi, ma erano degli impostori. Ora è stata aperta un'inchiesta. Ma come diavolo possibile? 3 mesi in questura? Ma chi cavolo erano? Milan è il caparat dell'informazione. Che? Il caparat? Ah, il caparat, ho sentito male. Va bene, allora inizia l'Expo. Ieri per la verità c'è stata già la serata. Io ho girato dopo un minuto, perché io queste regie moderne dove ogni 2 secondi si stacca mi fanno venire mal di testa subito in TV. E quindi però immagino sia stata una gran bella inaugurazione col concerto di Bocelli, e quindi una garanzia. È via l'Expo che ufficialmente apre oggi alle 10. Il primo visitatore varcherà le soglie dell'Expo. L'inaugurazione vera e propria sarà un paio d'ore più tardi, alle 12. Comunque poi dopo ci sarà uno speciale dalle 9 con Alessio Maurizi e Anna Migliorati, vi racconteranno ovviamente tutti i dettagli di quello che succederà oggi. Ci sono tanti articoli, ovviamente c'è un'intervista a Sergio Mattarella, capo dello Stato, intervistato da Marzio Breda, vale a dire il quirinalista del Corriere della Sera, pagina 2-3. Devo dire, sono quelle interviste, lo dico come gusto personale, che non leggerei neanche sotto tortura, ecco, lo devo dire. Sono quelle interviste molto istituzionali, con domande di 7 righe, risposte di 2 colonne di giornale, in cui si parla ovviamente di Expo, dell'importanza di Expo. Cosa dice il capo dello Stato? Oggi si apre un nuovo ciclo, è il segno dell'Italia che riparte. Parla ovviamente del tema, il capo dello Stato: nutrire gli abitanti della terra e dunque garantire a tutti il diritto alla vita è una questione cruciale, dirimente per il nostro futuro, non è un tema che riguarda gli altri. Siamo in un cambio d'epoca, ci sono momenti in cui è necessario forzare l'inerzia della realpolitik. E ancora, dice il capo dello Stato, l'Expo italiana intende dare un contributo culturale, sociale, di innovazione, ricerca e impresa, finalizzato a obiettivi di giustizia e pace. Gli sforzi organizzativi di queste settimane, l'ospitalità che sapremo offrire, i segni della storia e le bellezze del nostro paese che intendiamo mostrare sono incardinati in questa grande scommessa. D'altronde il mito della crescita illimitata era già finito prima della grande crisi. L'ambiente non tollera un consumo di risorse superiore alla loro capacità di rigenerazione. Parla anche Mattarella, questa è la fase forse più importante dell'intervista, degli episodi di corruzione in Italia. La corruzione, dice il capo dello Stato, è un'infezione che può distruggere il corpo di una società. Dobbiamo tenere alta la vigilanza perché la crisi, le diseguaglianze, la delusione indeboliscono gli anticorpi. Nella fase di costruzione dei padiglioni dell'Expo, la magistratura ha rilevato episodi gravi e avviato indagini che ora attendono il giudizio conclusivo. L'azione inquinante è stata contrastata e le istituzioni hanno stabilito nuove procedure e nuovi controlli. Se la legalità viene violata, la vita economica viene indebolita e lo stesso tessuto democratico deperisce. Parla, come giustamente deve parlare, con toni molto alti e severi il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'intervista completa la potete leggere a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Parla anche il ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio, immortalato su una foto nella sua proverbiale bicicletta mountain bike a Roma. Lo fa con La Stampa, Paolo Baroni, a pagina 6. Parte intanto dalle contestazioni. Ecco, perché oggi sono attese le contestazioni. Se ieri pensavate di aver visto delle cose gravi, oggi si teme quelle veramente più delicate, con un migliaio di antagonisti stimati dai servizi segreti che potrebbero infiltrarsi nei cortei di protesta. Allora, dice Del Rio, le proteste dei No Expo proprio non le capisco. Questo non è il G8, questa non è Davos, non è una riunione dei potenti del mondo, ma una festa per il pianeta e il diritto al cibo a favore di centinaia di migliaia di persone. La realizzazione dell'Expo è una sfida vinta. Un anno fa, ammette Del Rio, ero a Palazzo Chigi da poco, eravamo molto spaventati. L'avventura di Expo allora era praticamente fallita a causa delle inchieste. Molti, proprio per questo, chiedevano addirittura di non farlo. Oggi mi sembra si possa dire che siamo nelle condizioni di discutere non della sostanza, ma di alcuni particolari. L'Expo è una grande sfida per il paese come il nostro e, visto il controllo effettuato sugli appalti e l'accelerazione data, si può dire che la sfida della realizzabilità di Expo è vinta. Poi, che aiuto ci può dare? Se verranno rispettate le previsioni di 20 milioni di visitatori, gli esperti stimano che la spesa turistica salirà di 3,5 miliardi e il valore aggiunto di 9 miliardi. Qualche beneficio, insomma, dovremmo osservarlo. Così Del Rio, intervistato dalla Stampa, si dice expottimista. E oggi invece che succederà? Beh, speriamo poco, niente, ma si temono davvero, visti tanti arresti, tanti controlli preventivi, tante stime, forse qualcuno soffia anche sul fuoco della protesta e della violenza, un migliaio di antagonisti stimati. Andrea Galli racconta sul Corriere il covo degli anarchici in un palazzo del comune, trovato addirittura, una ventenne arrestata, trovati anche ieri coltelli, spranghe. È un caso anche che cosa? Beh, il tweet di Fedez, il cantante, che ha twittato: i danni dei No Expo sono poca cosa in confronto alle infiltrazioni mafiose e alle speculazioni economiche dell'Expo. Cosa c'entrano le due cose messe insieme? Poi dire così sembra quasi giustificare. Siccome ci sono stati degli episodi di corruzione, allora è giusto spaccare le vetrine? Questo allora bisogna... infatti Filippo Facci oggi... Sentite cosa scrive su Libero, eh? Vediamo un po' Oggi potrei andarmene in giro a cercare Fedez, un rapper brufoloso che ci fa rimpiangere Gimme 5 di Jovanotti, e magari tirargli un paio di sberle, dopodiché potrei dirgli che vuoi che sia un ceffone in confronto alla fame del mondo. Lui chiamerebbe l'ambulanza, ma io insisterei, un ceffone non è niente se pensi ai bambini del Burundi. Al che mi porterebbero alla neuro, pure in fretta, ma in ambulanza vorrei anche lui, Fedez, purché non canti. E questo perché ieri ha sparato cazzate ancora peggiori delle mie. I danni dei No Expo sono poca cosa in confronto alle infiltrazioni mafiose e le speculazioni economiche. Parentesi, la fame nel mondo almeno è una cosa seria, Fedez invece non sa neppure di che parla. Pazienza, è un modo di farsi notare e accontentato, ci siamo cascati. Ed è un modo di schierarsi coi minorati che ieri hanno imbrattato muri e danneggiato vetrine. E voi direte, ma stai a occuparti di un rapper per bambine? Giusto, ma occorre capire che il livello, quello dei vandali No Expo, è esattamente quello. Bisogna fare i conti e capirli, adottarne il linguaggio, lasciarli liberi di esprimersi, magari durante l'ora d'aria. I decerebrati No Expo hanno il loro menestrello, che ieri poi ha aggiunto: gli edifici imbrattati sono proteste, non vandalismo. E qui tirerei la terza sberla, perché non sono sberle, sono proteste anche le mie. E non c'è niente da capire, cantava uno che cantava davvero. Questo Filippo Facci, prima di Libero, c'è un simbolo, una persona che sarà tra l'altro nostra ospite, Giuseppe Parazzini, 70 anni, ieri l'avete visto forse immortalato, è uscito, è un notaio, è un ex alpino, che quando ha visto sfilare tutti... si è messo fuori con la bandiera italiana, è stato preso a lanci di uova e lui imperterrito lì, gli arrivavano le uova addosso sul vestito gessato, tutto elegante, sulla faccia, e lui immobile. Oggi fa due interviste a Repubblica Libero e dice: ma cosa volete, sono quattro ragazzotti, guardi che io ne ho conosciuti di 68, gente che poi ha fatto qualche cavolata, e presi individualmente erano bravi, ma insieme hanno fatto disastri, al contrario degli alpini. Dice, intervistato da Repubblica e anche a Libero, dice: sono ragazzotti insoddisfatti e senza disciplina. Vediamo che ci dirà quando sarà ai nostri microfoni più tardi. Vabbè, viva l'Expo, contestate l'Expo se considerate che sia da contestare, ma speriamo davvero non succeda nulla. La politica invece, ieri ci sono stati due fiducie e adesso si può dire, beh, oggi si chiude la 104esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ma lunedì si apre e si chiude forse, perché lunedì ci sarà il voto decisivo, finale, basta, la legge elettorale sarà legge, qui ci dovremo inventare, beh, intanto manteniamo il conteggio delle settimane decisive per l'abolizione delle province, questo sì, però ci fermeremo alla 105esima settimana decisiva, sarà quella decisiva, sì, sì, cari italiani, ce l'abbiamo fatta, la 105esima. A meno di clamorosi capitomboli, colpi di scena, ma non succederanno. Comunque, il retroscena di Matteo Renzi, che dice ai suoi: li abbiamo distrutti, lo trovate a pagina 17 del Corriere della Sera. Maria Teresa Meli, il premier, dice: li abbiamo distrutti e non andremo sotto neanche a Palazzo Madama, cioè al Senato. Abbiamo stravinto, li abbiamo distrutti, andiamo tranquilli fino al 2018. E anche al Senato, secondo me, i senatori non seguiranno Bindi, Bersani e Letta in questo potenziale suicidio. Non andremo sotto nemmeno a Palazzo Madama, perché già si guarda ovviamente a tutto quello che succede al Senato, dove i numeri sono un po' più risicati. Il segretario, tra l'altro, pensa con i suoi: ora dobbiamo occuparci delle tasse troppo alte, questo avrebbe detto ai suoi dopo aver incassato ormai questo definitivo sì sulla legge elettorale. Certo, c'è anche la preoccupazione, come abbiamo detto, per la decisione della Consulta di bocciare parte della legge sulle pensioni, e quindi come trovare questi 5-10 miliardi di euro. Ma la reazione di Renzi è stata calma e gesso, vediamo di studiare bene la sentenza e vedrete che troveremo una soluzione anche stavolta. Le due fiducie sull'Italicum, Renzi che prepara l'affondo secondo Repubblica nel retroscena di Francesco Beh e Goffredo De Marchis, alle regionali ora la resa dei conti, E la polemica politica c'è stata ieri con Brunetta, che quando ha visto Maria Elena Boschi parlare da porta a porta da Bruno Vespa ha fatto questo commento: Brunetta è come tutte le donne, è volubile e pensa al potere. E sono partite le accuse di sessismo, eccetera. Brunetta si è difeso: no, io ho detto che Boschi, essendo donna, è volubile come Renzi. Anche Renzi è un uomo volubile, quindi non ho fatto un attacco sessista. E vabbè, comunque è partita l'ennesima polemica. Sta di fatto che ora si guarda tutti al Senato. La trincea, come scrive Carlo Bertini sulla Stampa a pagina 13, è il Senato, dove il Premier si muove per sventare agguati. Lì ci sono 24 senatori di Bersani che daranno battaglia soprattutto sulla scuola e sulle riforme. Il primo scoglio è proprio la scuola, secondo alcuni. Tra l'altro martedì, il 5 maggio, ci sarà lo sciopero degli insegnanti, che metterà un altro sigillo, scrive la Stampa, sul bisogno di trattare gli aspetti più discussi della riforma sulla sinistra. Ma se ci fanno cadere, noi non li ricandidiamo e si va a elezioni. Questo è l'antidoto che Renzi vuole mettere come contraltare, come dire, la minaccia, e dire: ah sì, va bene, mandateci a casa e noi poi non vi rieleggiamo. Tra l'altro, sull'Italicum finalmente qualcosa di chiaro, perché tutto si discute se non del merito. E allora il Sole 24 Ore oggi fa una pagina molto apprezzabile. Siccome le leggi elettorali sono qualcosa di tecnicamente complicato, se volete capirci di più, a pagina 12 le 16 domande per capire la riforma dell'Italicum: la governabilità, rappresentatività, il premio di maggioranza, le soglie di sbarramento. C'è anche poi dei commenti: perché sì a questa legge di Roberto Dalimonte, perché no di Valerio Nida, che è presidente emerito della Corte Costituzionale. Insomma, tutti i punti positivi e negativi attraverso due grandi esperti della legge elettorale. Li trovate sul Sole 24 Ore, qualcosa che ci aiuta a capire come è fatta questa legge elettorale nel concreto. Alessandro Milani, fare il Williams dell'informazione. Deve aver partecipato a uno di quei rave della mattina questa ascoltatrice, prima di mandarci la sigla. Quei rave che pare sia la nuova moda, cioè ti svegli al mattino e invece di venire a lavorare come me, come Peter Bescapè, come Lorenzo Nespoli e come molti di voi italiani, si va a ballare. È la nuova moda. E poi si va a lavorare con calma, alle 9, alle 10, 10 e mezza, 11, 11 e un quarto. Allora, continuiamo a leggere i giornali. Che succede invece nel centrodestra? Nel centrodestra c'è un Silvio Berlusconi, l'abbiamo detto da un po' di tempo, che è un po' orientato su altro in questo momento, non tanto su quello che succede di politica. Certo, la politica l'ha un po' demandata da altri, ci sono i suoi del cerchio magico, la senatrice Rossi e altri a fianco a lui. Si vede un po' come padre nobile. Secondo il Corriere della Sera con Paola Di Caro, Silvio Berlusconi, attribuita a Berlusconi, sono queste frasi: non è più dentro ma non sarà mai completamente fuori dalla politica, vuole per lui un ruolo alla De Gaulle, un po' un ruolo istituzionale, un grande consigliere. D'altronde, dice, io per quel che ho fatto nella mia vita, per la mia età, il mio prestigio, la mia storia, non posso oggi mettermi a battibeccare con questo o quel leader quarantenne, non posso fare i comizi accanto a Salvini o sfidarlo a chi ha la ruspa più grande. È un Berlusconi che vuole un ruolo, come dire, da gran consigliere dei nuovi leader che si affacceranno per il centrodestra. E poi dice: per logorare Renzi basta mandarlo avanti a governare con tutte le difficoltà di sti tempi. Se la riforma del Senato si impantana e viene cambiata e sono costretti alla navetta Camera e Senato, cioè a passare dalla Camera al Senato, Camera al Senato, non ne escono più. Quindi il modo migliore è il logorio del tempo per far logorare Renzi, secondo Silvio Berlusconi, che, come detto, è preoccupato da due cose soprattutto: il Milan, la vendita del Milan o la non vendita del Milan, e la questione delle sue TV. Allora, sul Milan c'è stata una battuta d'arresto. La melina di Silvio. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. C'è questo Mr. B, thailandese, che ha 500 milioni di euro pronti per prendere la maggioranza del Milan, è qui a Milano, ma gli fa fare un po' di anticamera Berlusconi. Ieri doveva esserci un incontro decisivo, l'ho detto, è stato rinviato a oggi per capire però se ci sarà oppure ci sarà rottura. Non si sa se Berlusconi ieri pare che abbia fatto trapelare questa idea, ma non posso lasciare da perdente, cioè non posso lasciare in un momento in cui i tifosi contestano, in cui il Milan è nel peggior momento della mia epoca. O forse è tutta una manfrina, perché in realtà non considera l'offerta di Mr. B quella più efficace, ma considera più efficace quella di Mr. Lee di Hong Kong, che è l'altro uomo d'affari, Richard Lee. Quindi andrà a Mr. B o a Mr. Lee il Milan, o rimarrà lì, cioè nel senso che rimarrà a Silvio Berlusconi. E questi sono i giorni in cui si decidono queste cose. E poi la TV pensa anche a questo. Intanto tutte le deleghe, come scrive il Sole 24 Ore di Mediaset, sono passate per Silvio Berlusconi. Andrea Biondi racconta, pagina 29, come aveva anticipato ieri, l'avvenuta investitura. Da ieri Mediaset ha un timone e un timoniere unico di famiglia. Nella prima riunione del nuovo CDA, come anticipato dal Sole, Pier Silvio Berlusconi è stato nominato amministratore delegato al posto di Giuliano Adriani, che oltre al ruolo di consigliere rimarrà presidente di Publitalia, cioè la concessionaria. Adriani è anche nel comitato esecutivo di cui, oltre al riconfermato presidente Mediaset Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi, fanno parte i consiglieri Gina Nieri e Marco Giordani. Sempre ad Adriani è stato conferito l'incarico di supportare l'amministratore delegato di Mediaset nel posizionamento strategico del gruppo nel mercato pubblicitario. Il dato chiave di questi due giorni in casa Mediaset sta però inevitabilmente nel consolidamento del ruolo di Pier Silvio Berlusconi come capo azienda. Non che ne fosse lontano, e non da ora. Da aprile 2000 il 46enne secondogenito dell'ex premier ha ricoperto la carica di vicepresidente, rafforzata poi con estensione delle deleghe. Però ora è ancora più dentro e si guarda a che cosa? Si guarda a Sky, si guarda a Vivendi, si guarda alle possibili alleanze. Per quanto riguarda il gigante transalpino Vivendi di Vincent Bolloré, la società è reduce da una drastica ristrutturazione che ha visto significative cessioni da Activision Blizzard nei videogiochi ad Asset in Francia e Marocco, e in portafoglio sono rimasti anzitutto due rami, la divisione musicale americana Vivendi Universal e la pay TV francese Canal Plus, e oltre 10 miliardi di capitali. Insomma, si guarda agli scenari sulle TV, scenari sul Milan. Può darsi che tutto si sblocchi, può darsi no, staremo a vedere. Per la cronaca vi segnalo che cosa? Alcuni articoli interessanti. Il primo è questo. Viene dalla Germania. Il Sole, il secolo XIX racconta di questa vicenda: ergastolo al nazista, ma la giudice tedesca beffa i colleghi italiani. Renzo Parodi racconta della condanna di Hans Riss, 94 anni, condannato in Italia perché fece parte all'eccidio di Fucecchio. È stato condannato dai tribunali militari italiani, condanna definitiva, ma il giudice tedesco, una donna, ha detto non verrà a scontare la pena simbolica, perché 94 anni cosa volete, in Italia, non verrà a scontarla perché gli accertamenti della sentenza non soddisfano i presupposti minimi che uno Stato di diritto richiede per una sentenza di condanna. Cioè questo giudice sta dicendo che la giustizia italiana è ridicola in pratica. Durissima la reazione del procuratore di Roma Marco De Paulis, procuratore militare che aveva portato a giudizio gli ex militari tedeschi. L'affermazione che la giustizia italiana non abbia rispettato le regole dello Stato di diritto è inaccettabile, e comunque questo ex nazista rimarrà sereno lì. Su Libero, Selvaggia Lucarelli racconta, con un giallo incredibile, spassoso, che io ho letto, d'altronde le foto sono incredibili, che forse Lady Diana ha avuto una figlia in provetta segreta, con un ovulo fecondato che il ginecologo suo rubò, di fatto se ne impossessò e impiantò nell'utero della propria moglie. Cioè il ginecologo prese un ovulo fecondato di Lady Diana e Carlo, con la fecondazione, dunque fecondazione in vitro, e ha impiantato in segreto questo ovulo nell'utero della propria moglie. È nata una figlia che ora ha 30 anni, ci sono le foto, è una goccia d'acqua rispetto a Lady Diana, il giallo nel Regno Unito, la figlia in provetta di Diana, ma nuovo giallo. Ma sempre su Libero c'è la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali anche oggi. L'ultima accusa è questa: nell'ospedale del parto reale questo secondo genito gira la coca, le accuse, il secondo genito. Ma chi se ne frega!